Riflessioni da Marte. Diciamolo, a volte un po' di distanza, con un minimo di distacco, le cose si vedono magari con più chiarezza. E questa settimana qua su da Marte, con il mio telescopio, bisogna dire che si è vista la classe politica italica con più obiettività. Via, non è vero che in Parlamento non riescono a trovare mai accordi e mediazioni su nulla e litigano su tutto. Vabbè, qualche scaramuccia, via. Ma finalmente, con un grande senso di responsabilità, i partiti, tranne qualche rara eccezione, hanno trovato l'armonia. E su cosa l'hanno trovata i partiti questa bucolica armonia? L'hanno trovata, espressa nella sua unitaria pienezza dalla commissione bicamerale, sul decreto legge che doveva tagliare i costi della politica di regioni ed enti locali, dopo la scoperta, ricordate, delle fameliche scorribande di Batman e altri innumerevoli supereroi italioti. Quel decreto che dovrebbe sforbiciare stipendi, vitalizi, fondi e gruppi consiliari, un decreto che dopo il Salva Italia si potrebbe chiamare Salva Ostriche, poiché è parsa diffusa abitudine di tutti gli indebiti appropriatori di soldi pubblici quella di fagocitare, a parte diamanti, SUV, case e vacanze da sogno, di fagocitare dosi massicce di ostriche, col concreto rischio di provocare l'estinzione dei gustosi molluschi. Ebbene, i partiti hanno detto un secco no al decreto salva ostriche, non se può, se può no, soprattutto nella parte che riguarda il controllo preventivo dei conti da parte della Corte dei Conti, per quello che si chiama così Corte dei Conti. Inciderebbe gravemente, dicono, sull'autonomia di regioni ed enti locali. Insomma, come dire che la Corte dei Conti non ficchi il naso. E poi si sa che tanti politici, consiglieri, assessori, anche in questi giorni, hanno chiaramente espresso la loro preoccupazione, nel caso di tagli a stipendi e vitalizi, di onorare mutui di case da centinaia di migliaia di euro e altre piccole necessità di questo tipo. E poi come fanno? Viva la faccia, insomma. E per mantenere sempre imperturbabili e toniche queste bronze facce da competizione, arriva un trattamento rivoluzionario. Arriva direttamente dalla Thailandia e sbarca per il momento a San Francisco, ma presto potrebbe giungere sul suolo italico. Il primo salone di bellezza che promette una pelle da neonato senza alcuna procedura invasiva. Niente iniezioni di botox o acidi vari, niente tecniche chirurgiche, niente anestesie, solamente un sacco di sberle. È vero, è proprio un trattamento antirughe a base di schiaffi che arriva da Bangkok. Ogni trattamento completo, spiega la prima esperta che ha aperto un negozio proprio nel cuore di San Francisco, rassoda la pelle, cancella le rughe per almeno un anno e, pensate, fa emergere la bellezza interiore dei clienti. E ce l'avranno pure con la loro bellezza interiore anche i politici, no? Magari avranno bisogno di più schiaffi, ma ce la si può fare, sono i risultati quelli che contano, no? Per quanto riguarda il listino prezzi, ci sono sedute da 20 minuti a $350 e un pacchetto speciale di 4 sedute per $1000. Che dite, se le potranno permettere tanti politici italiani? Se li volete aiutare, cominciate a fare una colletta. Sei come schiaffi.